Immagini di Legnano. La chiesa dei Santi Martiri. La chiesa dei Santi Martiri, ultimata nel 1910, mentre il campanile è stato aggiunto nel 1922. È visibile una parte dell'attuale Piazza del Popolo. Alcune case sulla destra sono tuttora esistenti, così come l'imbocco della via Novara. La pavimentazione di questa piazza è ovviamente ancora sterrata. E siamo nel 1910. La Chiesa dei Santi Martiri, come è noto, festeggia anche quest'anno i 100 anni della sua consacrazione, avvenuta il 19 settembre 1910 da parte del Cardinal Andrea Ferrari. Pochi mesi più tardi fu dichiarata parrocchia e il primo parroco fu Don Luigi Castelli, i cui resti mortali riposano nella stessa chiesa dal 1993. È dedicata ai tre martiri cristiani, Sisinio, Martirio e Alessandro, trucidati il 29 maggio del 397 durante una festa pagana in località San Zeno in Val di Non. Le reliquie dei tre martiri furono successivamente trasferite a Milano e custodite nella chiesa di San Simpliciano. A Sisinio, Martirio e Alessandro è legata una leggenda popolare nata anche dalla coincidenza della loro morte col giorno della battaglia di Legnano nel 1176. Alla intercessione dei Santi Martiri, le genti lombarde attribuiscono la vittoria di Legnano. Dopo vari rimaneggiamenti subiti nella chiesa legnanese, nel tempo, quella più radicale è stato realizzato di recente, in previsione dei festeggiamenti del centenario. Tra le opere realizzate è stata inaugurata per la festa patronale un'artistica vetrata nell'abside, con un rosone sottostante, opere del maestro Carlo Rapp.